Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. 5 milioni di finanziamento e un consorzio internazionale formato da 7 partner provenienti da altrettanti paesi europei, uniti da un obiettivo difficile, di quelli che fino all'altro ieri sarebbero stati catalogati alla voce miracoli probabilmente, e cioè far tornare a camminare chi è rimasto paralizzato a causa di una lesione irreversibile al midollo spinale. Buonasera, benvenuti a Smart City. Porre le basi per raggiungere questo risultato così ambizioso è l'obiettivo del progetto Neurofibers, selezionato e finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma Horizon 2020, a cui per l'Italia partecipa l'Università di Trento. E allora diamo il benvenuto a Nicola Pugno, referente del progetto Neurofibers per appunto l'Università di Trento, dove è ordinario di scienza delle costruzioni. Buonasera Pugno. Buonasera, buonasera a voi. Allora, senta, qui parliamo di riparare un midollo spinale spezzato, cioè questo vuol dire riconnettere milioni di assoni, cioè quei sottilissimi fili invisibili a occhio nudo, un millesimo di millimetro di diametro, attraverso cui i neuroni, cioè le cellule del sistema nervoso, si scambiano dei segnali. Qual è la strategia per affrontare un'impresa così immane? Ma pensavamo in sostanza di utilizzare delle fibre da inserire in corrispondenza della lesione. Tramite la conducibilità delle fibre noi possiamo stimolare in sostanza la ricrescita degli assoni. Ecco, quindi appunto voi non potete riconnettere uno per uno questi assoni interrotti, che sono qualcosa come 16 milioni in un midollo spinale, ma appunto li mettete dentro questo dischetto di materiale, se ho capito bene, particolare, che aiuta il sistema nervoso ad autoripararsi. Ecco, veniamo a questo materiale, se ce ne parla. Sì, è un materiale che ha sostanzialmente, deve avere due caratteristiche, deve essere un conduttore, cioè deve poter condurre l'elettricità, e deve anche essere geometricamente appropriato per la ricrescita degli assoni. Questo perché è la stimolazione elettrica che convince, come dire, le cellule del sistema nervoso a ricrescere. Esatto, la stimolazione elettrica è quello che le aiuta, diciamo, a ricrescere, ma anche altri tipi di stimolazione potrebbero aiutare a ricrescere. Per esempio anche la stimolazione meccanica aiuterebbe a ricrescere. Una cosa a cui anche stiamo pensando. E quindi per il fatto di dover appunto avere questa stimolazione elettrica abbiamo bisogno di un elemento conduttivo. E invece la geometria di queste fibre di cui mi stava parlando serve, se ho capito bene, a dare una direzione a questa ricrescita, sostanzialmente. Esatto. E quindi dobbiamo avere una similitudine tra le geometrie del materiale biologico, no, e di questo materiale artificiale, e che quindi pensiamo come una microfibra in sostanza, poi un insieme di microfibre, per poter avere appunto questa topologia unidimensionale che tende ad aiutare la crescita di questi assoni una volta stimolati elettricamente. Senta, quali sono gli aspetti più difficili di questa ricerca? Dove vi aspettate di trovare gli ostacoli più grossi da superare? Ci sono già degli esperimenti preliminari che mostrano la possibilità, grazie a queste microfibre, di far ricrescere questi assoni. Chiaramente in parte ed è tutto ancora ovviamente da studiare. Però è chiaro che ci sono visti in questi esperimenti preliminari anche delle problematiche apparentemente molto semplici, ma non di facile soluzione. Per esempio queste microfibre inserite in corrispondenza della lesione creavano infiammazione ulteriore, oppure venivano semplicemente, si staccavano semplicemente. Si staccavano, si rompevano pure, addirittura facevano qualcosa anche di abbastanza strano, cioè migravano, semplicemente si trovavano poi in altre posizioni per dei motivi che non sono affatto, diciamo, scontati. Non è che si toglievano solo, ma addirittura migravano. Abbiamo anche delle interpretazioni su queste cose, ma sono tutti problemi che poi devono essere risolti. Perché quindi di biocompatibilità, di proprio resistenza meccanica a tutte le sollecitazioni e quant'altro. Tutte le sollecitazioni, se deve essere anche sufficientemente robusto questa cosa, certo. Sia per in fase, diciamo, di impiantazione, ma poi anche per quanto riguarda le fasi successive, no? Non si deve spaccare dopo un po' che è stato impiantato, ecco, quindi deve essere sufficientemente robusto. Sono tutte problematiche che ad oggi non sono risolte. Senta Pugno, quindi qui parliamo veramente della possibilità un domani che una persona che oggi sarebbe irrimediabilmente condannata alla sedia a rotelle possa tornare a camminare? Sì, è una cosa in cui noi crediamo, e anche se troveremo moltissime problematiche che oggi non riusciamo nemmeno a immaginare probabilmente, e che quindi porteranno tempi più lunghi certamente di questo progetto europeo, certo, di 5 anni, ma è una cosa che speriamo possa avvenire in un futuro. Grazie, grazie Nicola Pugno. Grazie a voi. Benissimo, ci fermiamo qui, appuntamento domani.